Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben ritornati nella nostra trasmissione. Dal 15 settembre è operativo il terzo scudo fiscale italiano per l'emersione delle attività finanziarie detenute irregolarmente all'estero. Oggi è in edicola una guida pratica del Sole 24 Ore sull'operazione di rimpatrio dei capitali e i termini della regolarizzazione, con tutte le indicazioni tecniche destinate sia al contribuente che vuole avvalersi dello scudo e accedere alla sanatoria, ma destinate anche ai professionisti chiamati ad assistere gli aderenti allo scudo. Visto che peraltro si tratta anche di un'opportunità enorme per gli intermediari finanziari e per le banche, oggi ne abbiamo chiamate due per farci spiegare che supporto si dà in questo frangente alla clientela. Nutrito stamattina il parterre dei nostri ospiti, Marco Peruzzi, collega del Sole 24 Ore, fra i coordinatori della guida che esce oggi con il Sole. Marco, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Fra un po' ci collegheremo anche con un altro esperto del Sole 24 Ore che lo stesso sta dando un grande contributo per spiegare ai lettori tutti i termini di questa enorme operazione. Benedetto Santacroce, che è professore di diritto tributario comunitario all'Università Marconi di Roma. E poi vi dicevamo, le banche come si stanno attrezzando per affrontare tutta questa operazione, ci racconteranno le loro esperienze Nicola Onorati, responsabile private del gruppo Montepaschi, e Francesco Tarabini Castellani, responsabile per l'Italia della banca svizzera Vontobel. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre curiosità su questo argomento, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Rapidamente un'occhiata alla borsa, che oggi ha una tendenza mediamente negativa. Dall'avvio abbiamo un calo di un punto percentuale a Parigi, anzi -1,21%, Londra perde lo 0,95%, Francoforte perde lo 0,67%, Milano stamattina è arrivata a perdere più di un punto e mezzo e poi ha ridotto il calo, adesso attestato allo 0,89%. I migliori titoli di Milano: Unipol in progresso di un punto, Buzzi più 0,86, Bulgari più 0,77, Terna più 0,6%, abbiamo un rialzo di mezzo punto per Ansaldo, per Geox più 0,35 per Telecom Italia. In ribasso invece Fiat, ieri protagonista di un rally molto deciso, oggi per il lingotto -2,53, -2,45 per STM, -1,94 per Tenaris, Mediaset -1,80, UbiBanca in ribasso di un punto e mezzo abbondante insieme al Banco Popolare, Prismian, Finmeccanica e Monte dei Paschi. Euro su dollaro a 1,4541, oggi il mercato attende il dato sulla disoccupazione americana che arriverà nel primo pomeriggio. Lasciamo allora la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Guida pratica del Sole 24 Ore oggi sullo scudo fiscale. Marco Peruzzi, dobbiamo fare un po' per tutti coloro che sono totalmente all'oscuro e digiuni di questa materia, che oltre che essere molto delicata dal punto di vista politico, aspetto che ci interessa relativamente a Salva Danaio, è molto complicata proprio anche nella doverla ovviamente spiegare. Per quello che riguarda il nostro paese, questo è il terzo scudo fiscale. Siamo al terzo scudo fiscale, storicamente parlando, sì. Sì, i primi due scudi nel arco temporale che va dal 2001 al 2002, ha delle differenze rispetto alle altre regolarizzazioni, in quanto è stato diviso ulteriormente le possibilità per l'emersione di queste attività finanziarie e patrimoniali all'estero. Anche allora c'era la possibilità di rimpatriarle, cioè di riportarle entro i confini nazionali. Anche allora c'era la possibilità semplicemente di regolarizzarle, cioè di dichiararle al fisco, ma continuare a mantenerle oltre confine. La differenza è che mentre queste due possibilità allora erano appannaggio di tutti i paesi, adesso bisogna distinguere tra i paesi UE e i paesi extra UE, tra quelli che non scambiano le informazioni con l'Italia, nei confronti del quale ovviamente c'è una maggiore chiusura da parte di questa possibilità. Lo scudo fiscale non è ancora diventato legge. legge, nel senso che dovrebbe essere questione di minuti oggi, peraltro. Oggi esatto. Dovrebbe esatto essere il giorno in cui la Camera darà il via libera definitivo non al provvedimento che ha istituito lo scudo fiscale, che è dell'agosto scorso, di inizio agosto, ma deve dare il via libera definitivo alle modifiche a quello strumento, che sono tante. Ricordiamo che lo scudo fiscale è già oggi possibile, il problema è che non tutti i tasselli sono a posto e quindi ancora io non ho per esempio notizie di rimpatrio, di regolarizzazioni già avvenute, perché proprio la normativa era ancora in movimento. Anche perché per esempio nelle prime puntate in cui ci siamo occupati qualche settimana fa di questo argomento con i fiscalisti che avevamo messo in campo a disposizione degli ascoltatori, avevamo dato proprio questa indicazione di aspettare un attimo in attesa che si chiarisse tutto il provvedimento, certo. Anche perché proprio i tempi erano diversi all'inizio, sì, Marco. Esattamente, è rimasta la finestra in cui è possibile fare lo scudo fiscale, è rimasta la finestra di apertura al 15 settembre, quindi dal 15 settembre scorso è già possibile in teoria fare lo scudo fiscale, però è stata accorciata questa finestra, anziché il 15 aprile del 2010, proprio con il decreto correttivo che oggi la Camera si appresta a approvare definitivamente, è stata portata al 15 dicembre, è stata sostanzialmente accorciata questa possibilità temporale, ma per un evidente bisogno di gettito nell'anno. Evidentemente. Ma le modifiche sono state anche altre e diciamo molto importanti, le stesse che poi hanno portato alla protesta anche vibrante delle opposizioni, e sono cioè l'estensione delle cause di non punibilità penali anche ad altri reati tributari e societari. Poi c'è un'apertura al rientro anche ai capitali detenuti all'estero tramite le famose CFC, che sono le controllate straniere. E poi un'altra cosa molto importante è un alleggerimento, quasi una cancellazione, dell'obbligo di segnalazione antiriciclaggio da parte degli intermediari, professionisti, banche, eccetera, che si occupano materialmente proprio del rimpatrio o della regolarizzazione. È presso di loro che bisogna rivolgersi presentando una dichiarazione cosiddetta riservata per poter scudare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero. Detenute illecitamente all'estero significa senza averle dichiarate al fisco italiano, significa, per dirla in parole povere, senza aver pagato le tasse. Perfetto. Tra l'altro poi il percorso che il contribuente che vuole scudare può fare lo racconteremo, perché è molto ben indicato a pagina 7 della guida pratica uscita oggi con il Sole 24 Ore, cioè sia il percorso che può fare il contribuente e il percorso che poi deve fare necessariamente anche il professionista che lo affianca, perché il contribuente, Marco, sicuramente non può fare niente da solo. A dimostrazione che insomma abbiamo cercato di destinare questa guida sia ai possibili fruitori dello scudo fiscale sia a chi li deve aiutare, quindi abbraccia un po' tutto, ha un linguaggio abbastanza accessibile a tutti ma anche approfondito per gli operatori del settore. Dicevamo, Marco ha citato il ruolo che rivestiranno in tutta questa fase, in questi tre mesi saranno caldissimi, il ruolo che rivestiranno gli intermediari. Gli istituti di credito si stanno necessariamente attrezzando per intercettare tutti i miliardi di euro che si prevede verranno rimpatriati. È una gara di velocità fra chi sta mettendo a punto la migliore task force, consulenti fiscali, magari anche immobiliari, piani di investimento per garantire anche a questi clienti poi il miglior rendimento ai capitali che torneranno a casa. Ed è soprattutto l'ambito del private banking che si sta muovendo, sono ovviamente quelle strutture bancarie che gestiscono patrimoni a partire dai 500.000 euro in su. Nicola Onorati, responsabile private del gruppo Montepaschi, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Allora, un momento molto intenso, immagino, nell'ambito bancario. Io le faccio una domanda che può sembrare anche molto, come dire, banale, però ci piacerebbe proprio capire cosa sta succedendo all'interno del vostro palazzo in questo momento e perché un cliente che ha intenzione di approfittare di questa sanatoria, di questo scudo, dovrebbe affidarsi alla vostra banca piuttosto che ad un'altra. Nel senso, come ci si sta organizzando anche dal punto di vista commerciale per, dal punto di vista vostro, approfittare di questa opportunità? Ma guardi, noi abbiamo iniziato a organizzarci ancora prima, evidentemente, del 15 settembre, anche perché le notizie che poi sono di fine luglio, prima di agosto, definivano qualche modo delineavano già quelle che erano le caratteristiche essenziali dell'operazione. Quindi abbiamo incominciato a strutturare in maniera molto, dal punto di vista organizzativo, molto, molto importante, e questo è stato il primo accento di Banca Monte dei Paschi. Il nostro gruppo è un gruppo che anche nel 2001, nell'anno successivo, si era caratterizzato come risposta importante alle esigenze dei clienti che hanno utilizzato lo scudo, ed è evidentemente poi un gruppo che per elementi valoriali storici risponde bene poi ai requisiti solidari, serratezza, eccetera. Dottor Onorati, io no, mi perdoni se la interrompo, devo già andare in pausa, quindi avremo modo poi di approfondire tutte queste cose nella seconda parte di Salva Danaio, ma a bruciapelo le chiedo, non la voglio mettere in difficoltà, magari la lascio riflettere ancora qualche istante. C'è già qualche cliente che si è fatto avanti appunto per scudare i propri capitali attraverso di voi? Ha già notizia, l'operazione garantisce il totale anonimato, però magari così qualche tendenza ce la può già indicare? Sì, noi abbiamo già diverse decine di clienti che hanno aderito, che stanno già portando avanti le operazioni, quindi nonostante che, come si diceva prima, la definizione degli elementi, i paletti sono in corso in questi minuti, i paletti ufficiali che poi apriranno altri orizzonti, noi abbiamo già iniziato a lavorare sui clienti, come dicevo, sia nell'impostazione organizzativa sia attraverso soluzioni di investimento e finanziamento ad hoc. Sappia che Marco Peruzzi poi le vorrà fare altre domande a questo proposito, Marco, però te le lascio nella seconda parte. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, e vedo già qualche ascoltatore che è pronto proprio ad intervenire sul caso più tipico che può interessare appunto questo condono: chi ha comprato una casa all'estero e o non ha pensato di regolarizzare la compravendita con il fisco italiano. Addirittura c'è un caso di un ascoltatore che vuole intervenire, vediamo se riusciamo a recuperarlo, di un commercialista che ha dimenticato di farlo per lui. Insomma, qui non è proprio una bella situazione. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina stiamo ritornando a parlare dello scudo fiscale. Oggi esce la guida operativa, la guida pratica delle Sole 24 Ore, destinata, come abbiamo già detto, ai contribuenti che vogliono avvalersi dello scudo, accedere a questa sanatoria, ma anche ai professionisti che sono chiamati ad assistere gli aderenti allo scudo. Ed è una guida che evidentemente guarda anche il ruolo che possono giocare in questa fase gli intermediari finanziari, che appunto Marco Peruzzi effettivamente fanno il ruolo degli assistenti di questa operazione. Per forza sono chiamati proprio a farlo dalla legge. Mi piace sottolineare, ora, al di là di tutte i commenti e le considerazioni che si possono fare sullo scudo fiscale, che sono legittimi in ogni caso, però mi piace sottolineare il fatto che, pur non essendoci delle regole certe, perché ricordavamo l'iter del provvedimento che ancora non è finito, del provvedimento correttivo alla Camera, manca poi tutta la serie di indicazioni operative pratiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché deve aspettare ovviamente la pubblicazione, entrata in vigore, delle regole correttive per poi fare la circolare con le indicazioni operative sostanzialmente. E sappiamo bene insomma poi che cosa succede abbiamo questa documentazione dell'Agenzia delle Entrate. Si aprono scenari di ogni tipo, ma perché non si tratta soltanto di regolarizzare o di rimpatriare dei soldi che si hanno oltre confine. Io ricordo negli altri scudi che si è regolarizzato di tutto, cioè hanno dimostrato quei due scudi precedenti che oltre confine ci sono più cose che addirittura non nella testa anche del ministro di pecore. Gregi di pecore, un cavallo puro sangue, è uno spaccato proprio sulle persone, impressionante. Infatti, so dove vuoi arrivare. Quindi Onorati, responsabile private del gruppo Monte Paschi, adesso c'è ovviamente un'altra domanda. Cosa c'è oltre confine? Perché Onorati di Monte Paschi, posso salutare anche Tarabini Castellani di Banca Fontobel, buongiorno. Benvenuti a tutti, buongiorno. Grazie di essere. Guardi che la domanda è anche per lei, perché Marco Peruzzi è molto curioso, ha già chiesto al rappresentante di Monte dei Paschi se alcuni clienti hanno cominciato attraverso di loro a scudare, poi ovviamente ci deve raccontare anche dal versante svizzero cosa sta accadendo e soprattutto quali, come dire, capitali originali sono oggetto di scudo. Onorati, è per lei la prima domanda. Ci può dare qualche indiscrezione in questo senso? Ma guardi, le prime operazioni sono evidentemente le più semplici, quelle che ad oggi non aprono fronti relativi anche al completamento, come si diceva prima, della normativa o le precisazioni o l'emanazione definitiva della circolare dell'Agenzia per le Entrate. Quindi stiamo parlando di operazioni ad oggi abbastanza definite nell'ambito del perimetro ufficiale. Invece l'orizzonte delle richieste, delle sollecitazioni è veramente molto molto ampio e richiede un grande approfondimento. Cosa vuol dire? Ma perché la casistica in termini di tipologia di paesi è molto, certo, molto variegata. E quindi per ogni, come dire, si possono anche poi evidentemente all'interno del mondo bancario magari prevedere, individuare delle soluzioni di prodotto, delle soluzioni di servizio particolari proprio concepite in ottica scudo, poi di fatto bisogna fare, credo dottor Onorati, una consulenza estremamente personalizzata proprio in virtù dell'aspetto che lei indicava adesso. Come dice lei, noi abbiamo ipotizzato una griglia di soluzioni di prodotto per venire incontro alle esigenze immediate, le più semplici da parte dei clienti. Poi abbiamo una struttura di specialisti sul territorio nazionale creata ad hoc che risponde al primo livello di sollecitazione e per esigenze ancora più approfondite, ce ne sono già tante, abbiamo un'unità centrale di advisory che è in grado anche attraverso ulteriori livelli di approfondimento di poter dare risposte. Tarabini Castellani, Banca Fontobel. Francesco Tarabini Castellani è responsabile per l'Italia di questa banca svizzera, quindi una banca svizzera che può contare sulla filiale italiana. Per queste banche l'applicazione dello scudo fiscale si riduce ad una mera partita di giro? Beh, mi sembrerebbe abbastanza riduttivo. Vorrei innanzitutto chiarire la posizione del gruppo Fontobel con riferimento allo scudo. Non solo io, che ovviamente sono responsabile del mercato in Italia, ma anche i nostri vertici di Zurigo, e lo hanno anche dichiarato sulla stampa italiana, vedono questa come un'interessantissima opportunità per i risparmiatori oltralpe, diciamo. In questo senso noi ci poniamo come altri intermediari italiani, avendo anche un po' il pedigree che può essere per alcuni positivo o meno, di avere un atteggiamento di una certa così riservatezza, certo, e privacy nei confronti della clientela. Ecco, in ogni caso torno anche con lei alla domanda originaria che Marco aveva fatto. Comunque qualche operazione già concretamente è partita tra la vostra clientela, e che cosa vi chiedono prevalentemente di scudare i vostri clienti che vogliono riportare e regolarizzare il capitale appunto in Italia? Poi vedremo anche, ricorderemo con quali procedure, perché c'è il rimpatrio e c'è la regolarizzazione, sono due strade diverse. Tarabini Castellani. Sì, assolutamente, ma guardi, abbiamo anche noi già avuto i primi casi di scudo. In realtà ci possono essere in un contesto molto ampio delle casistiche particolari, però la realtà è che noi riteniamo che il 95% delle operazioni siano estremamente semplici e facciano riferimento a titoli, obbligazioni, fondi che quindi possono essere rimpatriati senza problematiche particolari. Mm-hmm. Ma sì, anche case, vero? Abbastanza diffuso. Tarabini, la regolarizzazione. Sì, certo. Ovvio. Quindi l'immobile comunque ovviamente transita anche attraverso l'intermediario, la regolarizzazione della posizione dell'immobile. Sì, naturalmente questo solo nei paesi che lo consentono, come sappiamo in Svizzera non è possibile. Allora, siccome avevamo bisogno di un ulteriore assist proprio pratico e concreto da parte di un esperto preparatissimo su questo argomento, Benedetto Santa Croce, ben tornato a Salvadanaio, è professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma, oltre che uno dei maggiori esperti di questo campo e anche per il Sole 24 Ore. Santa Croce, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, oggi lo abbiamo recuperato come gran parte dei nostri ospiti, questa mattina veramente li abbiamo messi in difficoltà perché li abbiamo voluti a tutti i costi a Salvadanaio nonostante gli impegni personali. Santa Croce, ho subito una domanda per lei da parte di un ascoltatore che è Francesco da Milano. Francesco, benvenuto. Sì, buongiorno Deborah. L'avevo già annunciata prima perché il suo caso mi pare molto interessante. Sì, avevo accennato alle sue collaboratrici il caso di mia moglie, appartamentino a Parigi regolarmente acquistato tramite intermediari autorizzati, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni messo a reddito, l'ex commercialista ha fatto un po' di confusione, errori, diciamo, la dichiarazione del reddito, ripeto, a lui normalmente è stato prodotto da mia moglie al commercialista la denuncia dei redditi fatta in Francia con tanto di tasse pagate, eccetera. Sono stati fatti degli errori, tra cui la non presentazione del quadro RV. Ora, chiaramente a fronte di questo appartamento c'è un conto corrente che quindi non è stato dichiarato nel quadro RV, anche se la movimentazione è minima, però credo che sia di poco superiore, se non erro, se non ho capito male, il limite è 12.500 euro per poi essere, avere il dovere di effettuare la dichiarazione. Oh, volevo sapere, la regolarizzazione di questo conto, se sanerebbe in qualche maniera la situazione, quale termine e quale montante, quale cifra andrebbe presa in considerazione per effettuare appunto... Infatti, perché anche questa è una domanda interessante, bisogna prendere in considerazione, non so, il prezzo di carico nel momento in cui lei ha acquistato la casa, oppure il valore di mercato di adesso, quindi anche il pagamento di questa imposta del 5% per il rientro, su che cosa, su che tetto va applicato. Benedetto Santa Croce, ci sono un bel po' di questioni che pone Francesco. Prima cosa, può approfittare dello scudo per sistemare la sua situazione, Francesco, e soprattutto può prendere uno scudo e andare a tirarlo in testa a questo commercialista? Allora, questo l'ultima parte gliela lascio liberamente da fare, però ecco, voglio dire, il concetto di fondo sugli immobili è un po' delicata relativamente appunto a se sono stati o meno produttivi di reddito, e di fatto in Francia se la tiene a disposizione non è produttivo di reddito. Mi sembra che però dalla descrizione che è stata fatta c'è stata una produzione di reddito, forse perché è stato locato, forse perché è stato parzialmente acquisito e quindi con un trasferimento di denaro. Allora, ecco, da questo punto di vista, oltre che le istruzioni precedenti dicevano chiaramente che potevi regolarizzare a condizione che il trasferimento della provvista non fosse avvenuto attraverso un intermediario abilitato, perché se viene attraverso un intermediario abilitato e quel cespite non ha prodotto reddito, non sarebbe scudabile perché non ci sarebbe violazione. Se invece, come dice giustamente l'ascoltatore, ha prodotto reddito, di per sé può essere regolarizzata, perché è in Francia, è in un paese quindi comunitario che garantisce ovviamente lo scambio di informazione, quindi può essere regolarizzato e quindi io utilizzo lo scudo per la regolarizzazione. Ma Francesco fa anche la figura dell'evasore in una situazione in cui non aveva certamente, come dire, la colpa di quello che è successo. Qui c'è poi, si accavalla insomma anche un'altra situazione, ma in ogni caso gli possiamo consigliare di aderire. Guarda, il valore, ecco, una cosa che dobbiamo fare una valorizzazione che secondo me deve essere fatta sulla base di una perizia, anche perché la bozza di circolare che è stata emanata il 15 di settembre dall'agenzia ha trasformato quello che prima era una opportunità di fare la perizia in quasi un obbligo, perché scrive obbligatoriamente poi deve essere redatta una perizia, quindi io suggerirei di fare una perizia sul valore dell'immobile. No, tra l'altro per un caso come questo se l'ascoltatore volesse, mi pare di capire che forse ha intenzione di farlo, aderire allo scudo per regolarizzare questa situazione, qual è l'intermediario al quale si rivolge? Perché lui è titolare di un immobile Santa Croce, quindi non è che abbia un patrimonio anche, come dire, finanziario tale per cui è necessario passare attraverso la banca, non so se mi ha capito. No, assolutamente. Come può fare lui? Cioè, sul problema dei beni patrimoniali non ha bisogno della certificazione dell'intermediario estero, perché evidentemente non ce l'ha un intermediario estero, quindi utilizza direttamente un intermediario italiano, e in questo caso mi sembra chiaro che non ha nemmeno bisogno di andare a cercare una fiduciaria o quant'altro, insomma. Anche una banca, voglio dire. Ah, quindi una banca, può essere la banca quella la figura appunto a cui l'ascoltatore si può rivolgere. Allora, eccoci di nuovo in diretta con Marco Peruzzi, ci stavamo confrontando su questo benedetto, maledetto quadro RV della dichiarazione dei redditi, che poi alla fine, insomma, io ho dato tanta colpa al commercialista per il caso precedente, ma non è detto che forse abbia agito anche lui in buona fede. È sempre stato un quadro abbastanza oscuro questo, cosa devo indicare quando questa presunta produttività infatti prima quando chiedevo dei casi concreti di regolarizzazioni non, ovviamente in Svizzera non è possibile, ma chiedevo proprio se per la casa ci sono tante richieste, perché qui si fanno gli errori, perché poi alla fine che cosa scudo? Ho un capitale, non ho fatto, non l'ho dichiarato nel quadro RV, quindi questo già è il segnale che io posso regolarizzare la cosa. Un quadro rimasto molto oscuro, la stessa agenzia delle entrate se ne è resa conto e ha annunciato in un forum, tra l'altro ancora visibile, che abbiamo sul sito del Sole 24 Ore, del Sole 24 Ore, che probabilmente, forse nella stessa circolare con le indicazioni definitive sullo scudo fiscale, forse in un altro atto successivo, e comunque faranno chiarezza sul quadro RV doppia. E lo speriamo tutti quanti. Allora, c'è un'altra domanda interessante di Massimo da Mantova che voglio sentire, perché peraltro anche lui ci presenta un caso che può essere proprio tipicamente sanabile con questo scudo, e per esempio è un caso di questo tipo, proprio lo avevamo ipotizzato prima di far partire la trasmissione con Benedetto Santa Croce, che stamattina avevo sentito al telefono. Allora, ce lo facciamo raccontare. Massimo da Mantova, benvenuto. Sì. Grazie, grazie a lei. Questo. Io ho lavorato per alcuni anni in Svizzera, 6-7 anni insomma, regolarmente, poi sono rientrato in Italia e il reddito fatto in Svizzera era depositato in una banca in Svizzera ed è rimasto là. Sì. Quindi non c'è stata la volontà di portare all'estero capitali, sono quelli che io appunto ho prodotto lavorando all'estero. Certo. Devono essere sanati con certo, questa... ha una natura diversa, una domanda assolutamente legittima. Allora, per un attimo non abbiamo Benedetto Santa Croce, volevo sentire però, sì, è caduta la telefonata, Benedetto? Sì, sono qui. Ci sono, sente, qui. Quindi non è riuscito neanche a sentire la domanda di Massimo? No, se me la vuoi dare. Gliela ripeto, perché è proprio un caso come quelli che avevamo ipotizzato questa mattina quando ci siamo sentiti al telefono. Una persona va a lavorare all'estero per un tot di anni e magari per forza di cose deve attivare un conto corrente dove far transitare anche banalmente lo stipendio. Massimo ci ha raccontato: il mio denaro rimaneva lì in questa banca svizzera, ma non è che c'è stata la mia volontà di portare del denaro dall'Italia fuori all'estero per non pagarci le tasse. È una situazione che ha una natura molto diversa. E poi molto diffusa. È molto diffusa, esattamente, ha ragione Marco. Quindi in questo caso anche quel deposito che è rimasto lì è oggetto di scudo? Allora, una puntualizzazione anche relativamente a quello che è stato detto prima, perché si è parlato di 12.500 euro, ma il limite è 10.000 euro, sì. Quindi teniamo presente questa differenza. Ecco, l'esistenza di un conto corrente all'estero, alimentato ovviamente in questo caso, come nel caso di specie, da redditi di lavoro che vengono canalizzati normalmente dal datore di lavoro svizzero piuttosto che dall'organizzazione internazionale, perché poi questo fenomeno riguarda per esempio tutti i soggetti che sono distaccati dalle regioni piuttosto che dai ministeri presso per esempio l'organizzazione internazionale, pensiamo a Bruxelles, i soggetti che sono distaccati a Bruxelles. Ecco, l'apertura di questo conto e l'esistenza del conto superiore a 10.000 euro con il mantenimento ovviamente della residenza in Italia, sì, ovvero anche l'esistenza certo della residenza in Italia adesso, evidentemente produce un obbligo di dichiarazione nel quadro RV doppio, e quindi sulla base di questo evidentemente è un'ipotesi da regolarizzare. E non sono pochi soggetti, per esempio, che vengono trasferiti temporaneamente, che non perdono quindi la residenza perché il domicilio fiscale, gli interessi della famiglia li mantengono in Italia, continuano quindi a presentare una dichiarazione dei redditi in Italia e devono necessariamente indicare questo dato all'interno di RV. Se lo dimenticano, beh, questa è l'occasione per regolarizzarlo. Allora, grazie Santa Croce. Io, guardi, se vuole, siccome sto chiudendo e visto che ci ha dato anche in una, come dire, situazione rocambolesca la sua disponibilità, posso anche salutarla. Qualche indicazione pratica ai nostri ascoltatori l'abbiamo data. Adesso c'è un'altra domanda estremamente pratica che Marco Peruzzi vuole fare alle nostre banche, a Tarabini Castellani per Fontobel e Nicola Onorati per il gruppo Monte dei Paschi. In soldoni, Marco, quanto costa fare lo scudo? Quindi sì. Anche che tipo di, non dico commissioni applicano le banche che intende scudare, se viene rapportato al patrimonio che deve rientrare. Onorati, ecco, anche questo credo che sia un punto molto interessante. Ci può dare qualche indicazione, cioè, su questo? È pensabile che gli intermediari si facciano, tra virgolette, concorrenza su questo? Ma quanto possa fare lo scudo? Per quanto ci riguarda è il costo dei servizi bancari, finanziari che noi mettiamo a disposizione. Non ci sono dei costi legati allo scudo. Fissi, ci sono dei prodotti che hanno delle peculiarità che evidentemente portano a dare dei benefici anche in relazione agli oneri che il cliente assoggettato per l'operazione scudo, e quindi ha dei prodotti che hanno delle peculiarità legate a questo, ma non ci sono dei costi espliciti per l'operazione di scudo, un servizio di consulenza che noi mettiamo a disposizione della clientela. Tarabini Castellani, Banca Vontobel. Sì, questo è molto importante, è importante essere chiari, lo scudo non costa nulla, per un intermediario finanziario, per una banca come Banca Vontobel non è il nostro core business, il nostro business è quello di seguire gli investimenti dei nostri clienti, e a riguardo è fondamentale che il cliente venga profilato secondo la sua attitudine al rischio e le sue aspettative e che riceva un prodotto adeguato alle sue aspettative e al suo patrimonio. In questo senso è anche molto importante fare attenzione a eventuali sconti, offerte particolari che purtroppo il mercato offre. Insomma, in ogni caso quello che abbiamo potuto capire è che sì, forse non è esattamente questo il campo in cui giocare, una concorrenza becera, è comunque clientela abbastanza private, quindi con patrimoni abbastanza interessanti, anche se abbiamo fatto poi dei casi con come dire, dei patrimoni molto più modesti, conti correnti attivati solamente perché si lavorava, solamente perché si è andati a lavorare all'estero, quindi è chiaro che non si può neanche stare lì, Marco, a... Sì, o conto, come era l'altro ascoltatore, di mantenimento, no? Della casa eventualmente in Francia piuttosto che quindi insomma magari anche lì un consiglio pratico prima di salutarci, prima di partire e andare a tentare prima di partire concretamente, andare a sistemare la propria situazione, a scudare la propria situazione, magari forse però un giretto fra più intermediari finanziari qualora non avessimo uno di riferimento. Marco, in ogni caso credo che sia consigliabile a prescindere, che dici, sì, per capire qual è la miglior consulenza che ci può essere fatta senza valutarla solo ed esclusivamente sulla base del prezzo di questi servizi. Io ringrazio Marco Peruzzi, Benedetto Santa Croce che abbiamo salutato, Francesco Tarabini Castellani di Banca Vontobel, Nicola Onorati del gruppo Montepaschi. Salvadanaio termina qui, noi ci risentiamo lunedì con un Salvadanaio speciale dedicato ai 10 anni di Radio 24, come tutta la trasmissione, appunto, come tutta la programmazione della radio per lunedì sarà organizzata. Buon fine settimana a tutti. Salvadanaio.